Per arrivare da Lione a Parigi ci vogliono 4 ore. Per entrare dentro Parigi e parcheggiare a Montmartre ne servono altrettante. Ma il sindaco e il portavoce non si scoraggiano facilmente. Prendono alloggio nella casa di un'amica che non c'è, nel senso che è temporaneamente assente, e vengono accolti da una coinquilina che, pur non avendo la più pallida idea di chi siano questi due individui, decide di aiutarli nella loro missione diplomatica in qualità di intermediatrice culturale. Immediatamente la coinquilina li porta nell'isola di un fiume che non solo c'è, ma è anche piuttosto noto.